e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Avremmo dovuto essere al Parco del Valentino, invece la puntata l'abbiamo lasciata identica, però con un piccolo particolare, che noi non ci siamo andate. Vedi, facciamo come quelle, partiamo, ecco. Invece siamo qua e festeggiamo, no, qua. Esatto, tra l'altro l'abbiamo annunciato, non è che lo facciamo proprio sempre per tutte le trasferte, sono 5 giorni che diciamo andiamo a Torino al Parco del Valentino, ce la siamo tirata, diciamocelo. Vabbè. Detto vabbè, questo, allora la facciamo a metà, come se fossimo là virtualmente. Intanto continuano ad arrivare gli auguri per Deborah, esatto, perché stiamo festeggiando. Esattamente, allora neanche la regina Elisabetta festeggia per 2 giorni consecutivi. A questo punto ci metto anche il terzo, diciamo che possiamo proseguire domani. Sì, ma non mettete tutte le canzoni, poi per il compleanno di Nicoletta non me ne rimane più neanche una. No, tanto c'è ancora tempo. Vabbè. Adesso questa? Perché hai cosa le cuffie? C'entra? Esatto, perché se no c'era me la tanti auguri perché me le volevi non tirare. Brava, però dopo chiamo Burdo, guarda. Allora, dai. Allora, andiamo un po' con ordine, va, ripristiniamo la serietà. Dovevamo andare al Parco del Valentino, salone qua dell'auto. Però il tema che abbiamo scelto noi lo manteniamo perché in qualche maniera ha a che fare anche con l'industria automobilistica. Noi, per quello che riguarda i denari, parleremo di sharing economy. Come sapete ci sono tantissime iniziative ormai sul territorio che riguardano ogni campo economico. Stamattina faremo un focus con 2 ospiti che comunque sono a Torino e lì sono rimasti sul tema di questa nuova era dell'economia della condivisione. Per i trasporti significa tanto, significa utilizzare i servizi di trasporto condiviso di vario tipo. Peraltro leggevo stamattina un pezzo sulla stampa del corrispondente da New York che adesso anche i taxi newyorkesi, per affrontare la concorrenza di Uber, che là è attivissimo mentre qua ha avuto qualche difficoltà, stanno provando a organizzarsi fra di loro per trasportare insieme più passeggeri. Circostanze che qua in Italia ogni tanto accade, perché ti ricordi l'ultima trasferta che abbiamo fatto a Bologna? Io non riuscivo, la sera sono arrivata tardi, a trovare un taxi e c'era un tassista che si è messo lì a mettere sulla stessa auto più persone, perché ovviamente tra la fiera e raggiungere tutti gli hotel era un po' complicato, per cui il trasporto condiviso già in Italia i tassisti lo praticano. E questo è il tema che io affronterò per i denari, però in realtà ci leghiamo con il cuore. Certo, perché noi entreremo e usciremo dalla macchina per capire come si comporta la nostra schiena, ma parleremo di mal di schiena o soprattutto parleremo di come mantenere in pieno benessere la nostra schiena. E dato che tu parli di condivisione, vogliamo anche capire e condividere con i nostri ascoltatori all'800 24 00 24 se amano condividere non solo la macchina e il viaggio, ma magari delle occasioni. Io amo ad esempio mangiare insieme ai miei amici, è o vero, andare al cinema, oppure condividere il mese di giugno per il compleanno con me. Ecco, siete, allora volete, vi piace condividere, che cosa condividete, raccontatecelo. Intanto iniziate a fare un piccolo test della vostra schiena, soprattutto se siete in macchina, collo, spina dorsale, bacino, gambe, cercate di sentire la schiena. Spesso non la sentiamo perché è dietro di noi e quando fa male ce ne preoccupiamo molto, giochiamo d'anticipo. Allora, sì, avevamo qua una canzoncina, Let's Work Together. Canto io? Ma, esatto. Ma no, c'è, ma c'è tutto. C'è uno, ce la mandi o no, Carmelo? Sembriamo degli smandruppati stamattina in onda, ma ce la facciamo a portarla a casa anche oggi. Allora, dovevamo essere, come vi dicevo, al Salone dell'Auto. In realtà ci siamo virtualmente e allora ci confrontiamo su un tema molto popolare, ma che in realtà forse è stato anche un pochino, risultato anche un pochino antipatico, se volete, all'industria automobilistica tradizionale, la sharing economy nel campo dei trasporti. Allora, che cos'è l'economia della condivisione? Sicuramente molti di voi si sono appassionati anche a questa tendenza, è un'espressione che sentiamo sempre più spesso da qualche anno a questa parte, che può racchiudere diverse esperienze, iniziative, soluzioni. Fra queste anche molte idee che permettono di trovare nuove modalità per spostarsi, circolare, gestire i nostri pernottamenti privati e lavorativi. Quello dell'economia della condivisione nei trasporti e non solo, non è più solo un mondo appannaggio della popolazione giovanile che va a caccia di risparmio, ma nelle grandi città sta diventando un must per tante ragioni: costi, parcheggi, comodità, tempo e attenzione all'ambiente. Un argomento che si intreccia con un dibattito molto acceso negli ultimi mesi, quello in cui molti hanno iniziato a chiedersi dove finisca la sharing economy nel suo spirito nobile e dove inizino fenomeni, ad esempio, di passateci il termine che non è bellissimo, sfruttamento del lavoro poco regolamentato e tutelato, o anche una concorrenza poco regolare, non leale. Citiamo due casi su tutti, quello di Uber appunto nel settore dei trasporti e quello di Foodora, che ha fatto discutere nell'ambito del cosiddetto delivery food, cioè il trasporto del cibo, la consegna del cibo a domicilio, con una protesta che è partita proprio peraltro all'inizio dalla città di Torino. Allora, di tutto questo parliamo questa mattina con due amici di Cuore e Denari. Intanto salutiamo Antonio Caglielli, educatore finanziario, l'abbiamo ospitato tante volte, ci bacchetta sempre per le nostre pratiche di uso disinvolto della carta di credito. Buongiorno. Dopo la... ancora Nicoletta se lo sogna quel viaggio che ha fatto con te, Antonio. Trento Asti, esatto. Un trauma sicuramente, esatto, sì. Tutte le volte che le dico arriva Antonio Caglielli in trasmissione e... io di soldi non parlo, si mette la muta praticamente del rapporto che ho con i soldi, non voglio neanche con le spese. Posso dirti che in realtà io vorrei sgridare più Antonio, che secondo me ti ha fatto tutta una pantomima che non era proprio necessaria. Brava sgridalo Antonio, perché Nicoletta è una persona molto generosa in realtà, e quindi spende sempre per gli altri, e è tu vero, su questo so che l'hai sgridata, è vero, deve ma... volersi più bene, e su questo condivido. In realtà non l'ho sgridata, era un viaggio lungo, 2 ore e mezza. Ah, e quindi cercavi gli argomenti. Mi sono sdraiata, sai, ho condiviso il viaggio, certo. A proposito di condivisione. Brava. Allora. Era l'esempio che avete presente. Siamo partiti, è tutto partito da lì, la nostra collaborazione è partita da una condivisione di un viaggio, ma che meraviglia. Sì, in realtà io e te abbiamo condiviso, Antonio, un'altra esperienza, quella fatta dai microfoni di Radio 24 con il tuo amico del cuore, che è Massimo Melpignano, con cui hai portato avanti per tanti mesi lo spettacolo Brutti come il debito, con il mostriciattolo spread, poi avete fatto tante altre cose, e insomma oggi, questa di oggi è stata una nuova occasione per ritrovarci, così come è stata una nuova occasione per ritrovarci col professor Franco Becchis, che fa tantissime cose. Anche il professor Becchis l'abbiamo conosciuto a Trento qualche anno fa e oggi lo riproponiamo in questa particolare puntata di gemellaggio con Torino che non esiste. Becchis, buongiorno e benvenuto intanto. Buongiorno a voi. Direttore scientifico della Fondazione per l'Ambiente della Turin School of Local Regulation, docente in diverse università italiane ma anche straniere. Franco Becchis ha inventato la figura dell'economista di strada, ha molte aree di interesse, i suoi studi hanno molte aree di interesse, l'economia pubblica, l'economia della regolazione, l'economia ambientale, e il suo ultimo libro è stato Bestiario di Finanza, edito da Castelvecchi. Anche questo libro l'abbiamo presentato a Trento lo scorso anno, mi pare, no, professor Becchis, se non ricordo male, o 2 anni fa? L'anno scorso. Un anno fa. Allora, intanto già il telefono non ci piace, ripristiniamo subito il collegamento telefonico col professor Becchis. Intanto 800 24 00 24, diamo subito ai nostri ascoltatori l'opportunità di intervenire in diretta. Vi chiediamo: avete dimestichezza con i servizi ed esperienze di sharing economy? Quanto ne fruite? Appartamenti in affitto, Airbnb, consegna di cibo, quindi Foodora e compagnia bella. Concentrandoci poi in particolar modo sul car sharing, qual è la situazione più originale o assurda, se possibile, in cui l'avete utilizzato? Io ricordo per esempio che il nostro Marco, che oggi non c'è, si è sposato con la vetturina rossa. Tu non c'eri quel giorno, Nicoletta, no, ma lui visto. È arrivato con sua moglie con un'auto appunto di questo tipo. Raccontateci quindi cosa è successo a voi. Intanto siamo già arrivati alla prima pausa, c'è il traffico e poi iniziamo il nostro approfondimento. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Cuore e Denari. Allora, sharing economy, in particolar modo un piccolo focus sui trasporti, quello che vogliamo fare questa mattina, l'avremmo voluto fare a Torino, al Salone dell'Auto, al Parco del Valentino, una trasferta che non è più, come avete avuto modo di capire, andata avanti. Abbiamo però mantenuto la trasmissione e noi questa mattina per l'approfondimento di Denari abbiamo il professor Franco Becchis e il nostro amico educatore finanziario Antonio Caglielli, e poi se volete anche le vostre domande all'800 24 00 24. Allora, professor Becchis, è da qualche... Ecco, è caduto, ma insomma ce n'è qualcuna che va stamattina bene di avventura, non lo sappiamo. Antonio Caglielli, adesso allora c'è. L'educatore finanziario, che cosa dice? È la nostra roccia. Allora, il telefono funziona. Vabbè, possiamo dire che cosa c'entra la sharing economy con l'educazione finanziaria? Bravissimo, magari, non è immediato capire. Beh, innanzitutto, la sharing economy, che cos'è? Un mondo, no? quindi un modello economico basato sulla, su tante, un insieme di pratiche, perché sono proprio tante, che sono di scambio, di condivisione, un po' di tutto, di beni, di servizi, di conoscenze anche, no? E cosa c'entra con l'educazione? Innanzitutto, per educazione finanziaria non si intende soltanto il comportamento di spesa di denaro, poi soprattutto quando i soldi sono pochi, il fatto di poter condividere con gli altri, di abbinare a questo anche una dose di creatività, no, di attivazione, compensa tanto o poco la mancanza di denaro. Noi quando incontriamo le persone cerchiamo di spiegare loro come di far conoscere idee, persone o reti a cui potersi appoggiare, questo determina un miglioramento, è un po' come essere un po' più ricchi ma con gli stessi soldi se hai una rete. E per parlare anche di cuori, così rendiamo omaggio anche alla grande Nicoletta, c'è una bellissima ricerca, a me piace tanto, ha motivato molto di quello che diciamo oggi, di quello che faccio, di due cervelli scappati dall'Italia, sono i fratelli Cacioppo che studiano in America, che dicono proprio che le persone che si sentono isolate o non hanno tanti legami, forti legami con gli altri, vivono vite più brevi rispetto a quelli che sentono di avere invece legami più forti e affidabili, come se il cervello, come anche se la risposta immunitaria, il sonno, la stanchezza, l'esposizione alle malattie dipendesse dalla sensazione che ha un individuo di isolamento, di collegamento sociale. Sì, anche perché l'uomo è un animale sociale, assolutamente. Quindi siamo stati proprio progettati per questo. E poi l'educazione finanziaria fa questo, cerca di far capire concretamente se c'è o meno un risparmio, dove c'è, dove sta il punto di risparmio di un modello economico, non si vede un altro, quello dell'auto diventa fondamentale. Voi non sapete quanto incide in una famiglia tipo l'utilizzo e il costo dei trasporti in generale. Eh sì, certo, tra carburante, parcheggi da pagare peraltro, perché adesso mettiamoci anche quelli soprattutto nelle grandi città, l'assicurazione che è veramente un macigno annuale per molte famiglie e peraltro c'è sempre stata da qualche tempo a questa parte questa costanza di polemica attorno ai premi in aumento che poi ogni tanto si ridimensionano, situazioni che addirittura portano le famiglie a saltare anche il pagamento del premio con tutte le problematiche possibili di ricadute anche in termini di sicurezza, perché sì, effettivamente la spesa per l'auto è notevole nell'ambito del bilancio familiare. Professor Becchis, auto non auto, lei peraltro da qualche tempo collabora con lavoce.info e ha rilasciato moltissimi commenti di recente ed approfondimenti proprio sulle vicende Uber, sappiamo che ha studiato bene questo mondo. Le piattaforme di sharing economy oggi sono tantissime, proviamo a raccontare queste realtà che ormai esistono facendo un po' di esempi. Oltre l'auto, oltre ai trasporti, che cosa c'è di, a parte quelle note, magari di fenomeni che ancora noi non abbiamo visto in Italia ma che stanno facendosi largo, stanno provando a farsi conoscere? Ma abbiamo una realtà di piattaforme veramente variegata, ma vorrei iniziare con un'osservazione sulla parola sharing, che vuol dire condivisione, ma qui di fatto per la maggior parte delle piattaforme non si tratta di condividere un bel niente, si tratta di vendere degli asset che dormivano perché non trovavano una domanda e oggi, grazie al web e agli smartphone, sono riusciti a incontrare una potenziale domanda. Quindi il termine sharing economy, per carità, lo usiamo anche noi alla Turing School, lo uso anch'io perché è facile, è simpatico e ti fa capire, però è un termine fuoriviante. Il vero superato, ecco, quello che potremmo dire superato, non più ma adatto neanche a descrivere il fenomeno originario. Ma non è nato neanche così, cioè non è nato come condividere, è nato per vendere. I fenomeni come Uber, Airbnb, e Gnammo e tutte le piattaforme. Beh, BlaBlaCar però in realtà è nato per condividere dei passaggi in auto, per sempre con, È nato per condividere le spese del passaggio in auto, però, non per condividere il passaggio, sì. Cioè, condivisione, però lì c'era la condivisione delle spese, nessuno vendeva niente, non è che uno vende la propria auto, il proprio passaggio. Comunque no, capisco quello, il punto dove vuole arrivare lei, professor Becchis. Sì, ma è un'osservazione che va al di là dell'analisi semantica, diciamo, perché bisogna chiamare le cose col loro nome. Qui siamo di fronte a un fenomeno molto semplice, cioè che ci sono degli asset, cioè dei pezzi di patrimonio che sono tempo, camera d'albergo, posti in auto liberi, memoria di computer liberi, che sono disponibili e sparsi sul territorio, dormienti perché senza la tecnologia i costi per trovare una domanda potenziale erano troppo alti. Le piattaforme hanno abbassato, a volte azzerato, i costi di transazione, quelli che gli economisti chiamano appunto costi di transazione, che sono in parole semplici la difficoltà di trovare un compratore o di trovare un venditore. E abbassando questi costi hanno reso possibile ciò che prima era impossibile o dormiente. E lei mi diceva, oltre ai trasporti, che sono il fenomeno più dirompente, con Uber, Zego, BlaBlaCar, Flixbus, ma anche i motorini, che peraltro la Uber dei motorini, che peraltro chiude oltre Roma per mancanza di domanda, ma oltre ai trasporti, i mercati in cui l'impatto è stato maggiore sono sicuramente quelli dell'accoglienza, cioè le camere, le case, gli sì, certo. Ma anche il cibo e la ristorazione. Allora Bekis, un attimo, facciamo una cosa, adesso faccio fare 30 secondi di commento a Caglielli, ripristiniamo di nuovo la telefonata perché il collegamento purtroppo non è ottimale, però insomma Antonio Caglielli, come diceva Bekis, a prescindere dalla considerazione di carattere semantico, da che cosa voleva iniziare, da che cosa significava all'inizio questo concetto e poi come si è trasformato, sicuramente un circolo economico virtuoso prova ad innescarlo l'economia della condivisione. 30 secondi e poi andiamo all'approfondimento nella seconda parte di Cuore Denari. Sì, sicuramente lo fa, è importante che qualcuno sappia cavalcare o stimolare questi processi, è anche indubbio che sono delle occasioni per le persone da uscire dalla propria situazione di privata vita e di mettersi in connessione con gli altri, e ci si può guadagnare, certo. Il professore ha avuto ragione. Ci ritorniamo su questi temi, adesso c'è il giornale radio, ma ci prendiamo solo pochi minuti, certo, di pausa. Certo, intanto sgranchitevi e pensate alla vostra schiena, sentite che cosa vi racconta. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgia Telesforo. Sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Allora, eccoci qua, in assenza della trasferta al Parco San Valentino di Torino, parliamo comunque del tema che avevamo scelto di affrontare questa mattina, l'economia della condivisione, sicuramente un po' tutto è nato dalla sharing economy nel settore dei trasporti, quindi BlaBlaCar e tanti altri fenomeni ancora che sicuramente abbiamo magari anche utilizzato nel corso della nostra vita per poi andare ad esplorare vari settori economico-produttivi. Oggi sicuramente il più diffuso, il più noto è Airbnb e quindi questa piattaforma che ci dà l'opportunità di mettere in affitto o una nostra abitazione o addirittura una casa della nostra abitazione. Anche questa viene contemplata, questa nuova prassi, come economia della condivisione, e ci sono però anche tanti altri settori che si stanno muovendo in questo senso. A me colpisce molto per esempio quello per i servizi domestici alla persona, piattaforme come, e le ricorda anche lo stesso professor Bekis che è oggi ospite di Cuore e Denari sui suoi pezzi per lavoce.info, ci sono tante piattaforme che danno l'opportunità appunto magari ad una famiglia in difficoltà di trovare una persona per un'assistenza ad un anziano e quant'altro. Poi c'è tutto il tema dei per esempio delle pulizie per la casa, Helpling. Insomma, io vi chiedo anche agli ascoltatori se ne avete utilizzato qualcuno, con quale vi siete trovati meglio, quali invece ancora suscitano un po' di vostre perplessità e dubbi nell'utilizzo. 800 24 00 24, condivideremo le vostre osservazioni non solo col professor Franco Becchis ma anche con il nostro amico educatore finanziario Antonio Caglielli. Peraltro, Antonio, torno a te, perché per quello che riguarda l'auto, all'inizio sono state in molti casi le amministrazioni pubbliche, i comuni, a partire con dei progetti, no? Poi sono arrivate le iniziative private, Enjoy, Car2Go, tanto per ricordare i più noti, le più note, e sembrano aver avuto un po' la meglio ed essere diventate più popolari. E poi c'è anche un episodio che si è verificato a Torino, no? Magari vogliamo ricordarlo. Sì, noi abbiamo sperimentato uno dei primi, diciamo come amministrazione di Torino, aveva sperimentato una delle prime esperienze, che era Io Guido. Se non ricordo male aveva una partecipazione del comune di tre quarti del capitale e un altro quarto in una società privata, che è naturalmente il settore auto, che però poi ha lasciato il posto alle nuove più efficienti. Ora, non ci trovo niente di particolare, che se a mio avviso l'amministrazione pubblica dovrebbe, come dire, garantire le condizioni infrastrutturali, non deve fare concorrenza, credo, al privato, deve semmai aiutare nella logica della sussidiarietà chi riesce a entrare sul mercato, farne anche come dire, un'attività di carattere economico, per creare piuttosto le precondizioni. Immaginiamo ad esempio l'amministrazione che si occupa di fare le piste ciclabili, ecco, questo è il suo ruolo, forse quello di diventare direttamente un attore in questa fase qui trovo che sia piuttosto complicato. Creare le precondizioni e avere anche il coraggio di fare un passo indietro quando il privato riesce a fare questo. Certo. Io mi rendo conto, ha ragione il professor Becchis quando dice che la scena dei coni è un mercato. Più che vedere la contraddizione, dal mio punto di vista cerco di vedere le opportunità di questo mercato. Ah beh, sicuramente, insomma, qua il dibattito che si potrebbe scatenare sicuramente è ampio. Ma l'iniziativa invece di Torino, Cielo Cielo, Antonio? Cielo Cielo, ah grazie, guarda, Cielo Cielo, sì, te lo raccontavo l'altro giorno, è una bellissima cosa. Cielo Cielo, ecco, Cielo Cielo è una storia, diciamo, in bianco e nero, che però abbiamo recuperato in una versione moderna. Che cos'è? È una cosa che abbiamo lanciato con una delle case del quartiere. Torino è una lunga esperienza di questo genere. È un portale dove vengono le persone fisiche, caricano un bene attraverso una fotografia e si rendono disponibili a regalarlo e anche a portarlo, non solo a donarlo ma anche a portarlo. Certo, giustamente, perché se è un modo per liberarsi di una cosa che è a casa ma in realtà è per cercare un trasportatore che te la porti via, questa è un'altra cosa. Invece è un'altra cosa. In realtà, bisogna che ti impegni fino in fondo, ecco. Esatto, e dall'altra parte non ci sono i privati ma c'è un'organizzazione, quindi nell'ambito delle organizzazioni che si muovono nel terzo settore, compresa la città, che può richiedere questi beni, diciamo garantendo che dall'altra parte c'è una persona che è in una situazione reale di bisogno. Quando questo incontro si ottiene attraverso questa piattaforma informatica, un sito, il sito è già operativo ma insomma lo scambio inizierà mi pare fine giugno, anche se l'abbiamo testato, funziona proprio così, cioè si mette in contatto. Quando il bene è molto piccolo, diciamo, è trasportabile, la persona lo porta; quando è più grande c'è poi un'organizzazione, certo, che ci aiuterà a trasportare. Insomma, secondo questo spirito non è esattamente, insomma, un po' a contestare. Tu cosa daresti? Ah, guarda, se apro un po' i cassetti di casa mia di cose, non cose di scarto, ma magari cose che non mi servono e che potrebbero servire ad altre, perché ne so, ogni tanto mi capita, per esempio, che a Natale ti regalino delle cose che non ti servono perché sono tante, portafogli, portagioie, tutte queste cosine qua, insomma, che magari possono contribuire ad arricchire non una casetta un po'. Non hai ancora aperto il mio regalo oggi? Dopo, ma noi abbiamo molte cose che hanno ancora molto valore, però non li riciclo i regali, no, proprio questi personali, così, ecco, deve essere proprio una cosa impersonale arrivata, perché comunque noi nel nostro lavoro dobbiamo ricordarlo, siamo fortunati in questo senso, delle cose arrivano, un po' di doppioni in casa ne abbiamo, per non parlare poi insomma delle agende di Natale, ecco, quelle sono veramente il grande cavallo di battaglia. Professor Beck, torno da lei. Allora, dicevamo prima, pratiche di questo tipo sicuramente nella loro accezione positiva e buona sviluppano un circolo economico virtuoso. Quando invece, e anche come consumatori, cittadini, dobbiamo fare attenzione, si innescano o si rischiano di innescare dei meccanismi distorti, no, che escono dall'ottica della sharing economy vera e propria, la cosiddetta economia dei lavoretti. Lei scrive tanto su questo, sulla Voce. Come la possiamo leggere, appunto, in questo senso? Che cosa intendiamo con questo fenomeno, questa ramificazione, diciamo, della sharing economy? Beh, intanto Cielo Cielo che avete citato è veramente sharing economy, perché non c'è una domanda offerta pagante, e quindi queste esperienze ci sono, non le paragonerei appunto a Airbnb o agli altri siti che invece fanno un business, certo, positivo, ma sicuramente hanno una componente appunto corporate di business. L'economia dei lavoretti è molto delicata perché da un lato ci sono due aspetti critici e delicati nello sviluppo di queste piattaforme, ne cito due ma in realtà sono di più. Il primo è che sono nate, si sono sviluppate senza regolazione, perché è sempre così quando i mercati vedono l'irrompere di nuovi player. Infatti si cerca di disciplinarla adesso, tipo con la web tax, Airbnb, gli affitti brevi e tutto quello esattamente. Che ne quando è arrivata l'automobile sulle strade, il codice prevedeva le carrozze con i cavalli e l'automobile ha rotto un mercato e le regole sono venute dopo. Quindi la regolazione è necessaria, bisogna però evitare di fare una regolazione copia e incolla. Non si può applicare a Flixbus la regolazione dei bus di linea, non si può applicare a... Ci ricorda che cos'è Flixbus? Perché Flixbus ne avevamo letto ma non ne abbiamo mai parlato. È una piattaforma che appartiene alla cosiddetta sharing economy, in realtà è una piattaforma di asset dormienti. Ci sono milioni di posti autobus disponibili nei depositi dei trasportatori, dei proprietari di autobus. La piattaforma mette in contatto questi posti autobus disponibili su certe linee intercity con potenziale domanda e quindi tendenzialmente giovane a prezzi competitivi. È una vicenda che sta interessando in questo momento la regolazione nazionale, vedremo come finirà. Però tornando ai lavoretti, dicevo, ci sono alcuni aspetti critici. Primo, di regolazione di questi nuovi fenomeni, una regolazione che però deve essere anticipatoria, attenta e flessibile, non può essere semplicemente prendiamo i decreti e applichiamoli ai nuovi entranti, perché ripeto, spiace dirlo, ma Uber è un fenomeno nuovo, Airbnb è un fenomeno nuovo, l'home restaurant è un fenomeno nuovo. L'antitrust ha bacchettato il Parlamento che in una legge sugli home restaurant tende a fare un copia e incolla della regolazione vecchia in parte su un fenomeno totalmente nuovo. Insomma, questo comunque già stiamo andando ad un livello, professor Becks, delicato, alto di normativa. Adesso il tema è capire quale di tutto questo, quale punto è buono per noi consumatori, che cosa ci fa crescere, cosa ci fa diventare anche dei consumatori attivi e responsabili, cosa invece è bene ancora non utilizzare, magari per incentivare delle pratiche non propriamente ancora corrette, proprio perché non disciplinate. Volevo solo sentire, perché poi dobbiamo dare la linea al cuore, Massimo da Trieste, che ha una buona esperienza con una modalità forse la più conosciuta in Italia. Massimo, benvenuto. Buongiorno. Velocissimo, grazie. Sì, velocissimo. Ho avuto questa esperienza con BlaBlaCar come conducente. Mi sono proposto perché sono un vecchio guidatore stanco, per lavoro faccio ancora lunghi tragitti e mi sono proposto come appunto in BlaBlaCar, ho avuto la fortuna. Ha messo a disposizione l'auto oppure ha fruito di... No, come diciamo accompagnatore, ecco, io come conducente ho dato come passeggero, ecco diciamo. E, no, ma passeggero o conducente, Massimo? Non ho capito. No, io conducente. Ho offerto un posto della sua auto a un passeggero. Esattamente. Ed è stata una bella esperienza perché persone gradevoli con quindi lunga chiacchierata, esatto, che mi ha tenuto sveglio. Anche se poi in realtà invece c'è il mio obiettivo. Grazie Massimo, in realtà c'è chi cerca il risparmio ed è terrorizzato dal fatto di incontrare un vicino di viaggio, un compagno di viaggio logorroico, e lì si apre un altro invece genere. Magari nascono delle amicizie, esatto, poi si condividono altri progetti. Infatti, sicuramente è nata un'amicizia, non so se dopo questa puntata la vorranno chiudere, con Antonio Caglielli e Franco Beck, se noi abbiamo terminato per stamattina, ma vi recuperiamo al più presto in una trasferta che funzionerà meglio sicuramente, e ritorneremo su questi argomenti che sono delicati e soprattutto vanno tenuti sotto stretta osservazione perché sono ormai inevitabili nella loro crescita. Per cui grazie ad entrambi, professor Becchi, a presto, grazie ancora. Grazie Antonio, buona giornata. Grazie a tutti voi. Ciao. Grazie di tutto e anche della vostra disponibilità questa mattina in questa puntata un po' complessa. Senti, Nicoletta. Stavo pensando che io non ho mai condiviso la macchina, ad esempio, un viaggetto. Tu l'hai fatto? No, io no. Io l'ho condiviso con te perché siamo andate, per esempio, ultimamente nel Monferrato insieme. Bello, no? Io sono una che guida tanto e mette a disposizione molto la propria auto. Io l'unica che ho me la prendono le mie figlie, quindi non me la condivido, ma rimanendo a piedi. Condividi il guinzaglio con Emma, insomma. Comunque, condivido con te tanti messaggi che stanno arrivando per fare gli auguri del tuo buon compleanno. Bene, sì, lo sanno anche naturalmente, le formiche. E mettono naturalmente in mezzo anche a me, perché dicono, poverina, se no niente, ma arriverà anche il mio turno e sarà anche quello di Deborah, perché ormai siamo sempre insieme, un po' come delle gemelline, e in effetti condividendo tanto tempo insieme, Deborah, io passo più tempo con te che con mio marito, ormai l'abbiamo detto, tanto che ci viene da dire, da quando stiamo insieme? Esatto, e Carlo si inalbera un attimo a fronte di questa affermazione. 800 24 00 24, vi piace condividere tempo, occasioni, passioni? Oppure siete più solitari? 800 24 00 24 raccontatecelo, perché ci collegheremo anche con il dottor Francesco Aquilar, presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, che a Deborah piace molto. È vero. In attesa di condividere con lui le sue riflessioni. Intanto noi condividiamo l'ultima parte della trasmissione con il dottor Luca Tomaello, che è specialista in medicina fisica e riabilitazione, che dovevamo conoscere di persona, ma che conosciamo solo via telefono. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Grazie. E buongiorno a radioascoltatori. Le è dispiaciuto un po' di non conoscerci di persona. Mi è dispiaciuto non conoscervi, sì. Ecco, io le avrei subito chiesto di farci una sorta di check-up alla nostra schiena, perché noi siamo molto sedute e stiamo spesso storti in iaccola. Guarda come stai seduta tu adesso, con la gamba sotto il sedere. Laura, la vuoi fotografare per favore? Allora intanto mettiamo a disposizione dei nostri amici che stanno già chiamando per lamentarsi della loro schiena, ma io, dottor Tomaello, ho chiesto anche agli amici di dirci come mantengono la loro schiena in pieno benessere, efficiente, quindi bella tonica, una schiena che non si lamenta ma che ci porta in giro soddisfatta, perché è possibile anche questo. Ma intanto, dottore, facciamo un semplice autotest. Chiediamo agli amici che magari ci stanno seguendo in macchina, o che Deborah ha parlato di macchina, la utilizzano in condivisione, quando entrano ed escono dalla macchina, avvertono qualche disagio, qualche peso, un dolorino, oppure la schiena si fa sentire, o magari non la schiena, il collo, le gambe mentre guidano o mentre stanno seduti a lungo? Ci stai pensando? Sì, esatto, stavo riflettendo. Dopo quando... ore di guida o dopo tanto tempo passato alla scrivania, ma non solo, non si lavora solo alla scrivania. Ho anticipato sicuramente un ascoltatore, ci sono anche dei lavori che ci impegnano, e quindi magari di lavori manuali, oppure si sta ore e ore in piedi. Insomma, che cosa vi dice la vostra schiena? 800 24 00 24, quando si lamenta, se c'è un momento particolare della giornata in cui vi lancia il suo SOS, e noi andiamo subito, perché facciamo subito lavorare il dottor Tomaello, ma da Loris, che ci chiama da Monza. Buongiorno Loris, benvenuto. Buongiorno a tutte voi, belle gioie. Buongiorno. Oh, bravo Loris. Voi e Deborah, il mio compleanno, quindi ufficialmente festeggiamo. Bravo, vedi? Bene. Un altro gemellino. Allora Loris. Infatti sto cercando l'anima gemella. Va bene. Vabbè, ma quella gliela troviamo noi. Dobbiamo aprire una... C'è la moglie che mi sente poi dopo. Allora! Ma pure lei però. Noi ci sentiamo sempre, dai. Dai, allora Loris. Allora il mio problema è questo. Proprio giusto a fagiolo, ho sentito e sono andato a prendermi subito la mia diagnosi. Perché io ho un anno che sto soffrendo di mal di schiena a livello lombare. Sono caduto qui in garage da un gradino, ho picchiato violentemente, però niente di particolare. E mi sto trascinando da un anno. Poi ho fatto una lastra e mi dice, chiudendo in breve, artrosi marginale, specie centrale, minima discopatia L5-S1. E quindi il fatto che non mi cali il dolore, soprattutto alla mattina, quando mi piego per lavarmi, mi crea, è disturbo più che altro, non se ne va. Poi durante il giorno porto un po' un scalda un po' busto, e si scalda e se ne, lo condivido, ma la cosa strana è che non se ne sta andando. Ecco, ecco, si è affezionata, vedo. Allora Loris, il dottor Tomaello non può entrare naturalmente nel caso suo specifico, se vuole magari ci manda qualcosa, noi lo faremo lavorare al pomeriggio per noi, ma intanto dottore, che cosa ha raccolto dalla testimonianza di Loris che può essere utilizzato per dare anche delle indicazioni agli ascoltatori? Un mal di schiena che nasce apparentemente per una caduta ma non passa, ecco. Allora, il discorso è questo, è un racconto piuttosto comune, perché Loris ci dice ho male prevalentemente al mattino, quindi al di là della caduta lui ha male al mattino quando la rigidità aumenta. Noi mentre dormiamo i dischi intervertebrali, che sono questi cuscinetti che sono interposti tra le vertebre e che sono costituiti prevalentemente da acqua, si rigonfiano, piano piano si rigonfiano e mettono in tensione la muscolatura che è intorno. Ci alziamo, la muscolatura è fredda e quindi le tensioni muscolari e il dolore aumenta. Per cui il consiglio dal punto di vista generale nelle ore mattutine è quello di alzarci con molta tranquillità, farci una bella doccia calda in modo da rilassare la muscolatura e iniziare i movimenti con calma. In questo modo la fluidità del movimento migliora, le tensioni si riducono e quindi il dolore tende progressivamente a decrescere. Se iniziamo la mattinata subito a 100 all'ora con movimenti di flesso rotazione, facendo il letto velocemente, allora questo ci può mettere in difficoltà. Perché la schiena ha bisogno dei suoi tempi, ci sta dicendo, dei risvegli morbidi. Esatto, la schiena ha bisogno di ricarburare, soprattutto nelle ore mattutine, di ricarburare. Dopodiché ha bisogno di essere sostenuta da una muscolatura adeguata e questo è l'altro punto principale che consente di fare un po' di prevenzione sul dolore alla schiena. Ecco. E quindi noi lavoreremo anche con i suoi consigli, individueremo i muscoli che aiutano alla nostra schiena a stare bene e poi anche gli esercizi, gli interventi, ma anche i metodi e le tecniche che vengono utilizzate per sciogliere le tensioni che creano dolorose della nostra schiena. Ce ne sono tante, naturalmente non riusciremo a parlare di tutte, ma cercheremo insieme al nostro esperto di darvi dei consigli e soprattutto di aggiornarvi sulle novità. Intanto però voi non fermatevi alla schiena, cercate anche un po' di osservare, di pensare alla vostra postura, cercate di, come dicono gli esperti, di ascoltare il vostro corpo, perché tendiamo sempre a metterlo a tacere, poi alla fine lui urla, non ne può più e allora corriamo ai ripari. In realtà potremmo provare a giocare d'anticipo e possiamo farlo già sin d'ora, magari cercando di ascoltare il collo, le spalle, il bacino, le gambe, giù sino ai piedi. E magari se siete seduti controllate anche i punti d'appoggio. 800 24 00 24, basta una telefonata per cambiare posizione e anche stato d'animo, e questo sembra possa aiutare. Soprattutto tenete la fronte rilassata, è una piccola azione capace di portare grandi risultati, perché mantenendo la fronte rilassata, come ci insegnano anche i maestri yoga che sono venuti a trovarci, sì, come Daniele Bellone o Benedetta Spada, è davvero difficile pensare negativamente, perché i maestri insegnano proprio che agendo sul corpo abbiamo la possibilità di influire anche sulla mente. Allora, perché lasciarci scappare questa straordinaria opportunità? Proviamoci e intanto adesso andiamo a sentire i mercati con andiamo. La fronte rilassata, ce e la fai schiena mica. Dritta, schiena dritta. E la schiena, sì, stiamo un po' in equilibrio e poi ascoltiamo che cosa ci dice la nostra schiena. Tanto abbiamo il dottor Tomaello che l'ascolta e ci dà delle indicazioni per aiutarla a stare bene. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Ti piace, Deborah? Ritorno al futuro. Brava, nel futuro ho letto che le auto saranno piene di telecamere e sensori che insieme a dei dispositivi biometrici indossabili controlleranno costantemente le funzioni vitali di guidatori e di passeggeri, insomma un check-up continuo che andrà ben oltre la verifica dello stato di attenzione per avvisare di rischi e colpi di sonno. Io mi auguro che mettano, prima di pensare al sensore che ti controlla il battito cardiaco, mettono un sensore nei seggiolini dei bambini. Ancora se ne parla oggi. Sul giornale leggiamo della mamma che ha dimenticato il bambino. Il sensore del seggiolino. Ecco, il sensore del seggiolino. O anche facciamo sul sedile dell'auto, non so in che maniera. Insomma. Ecco, sarebbe. Guarda quanti bambini, quante bambini e famiglie. No, ma la cosa incredibile è che serve una legge a quanto pare per obbligare all'inserimento del dispositivo. Ma io dico, l'industria, ma è possibile che non pensi oggi di mettere in vendita dei seggiolini con in automatico un dispositivo semplice che segnali situazioni? Bravo, voglio dire, cioè vi inventate tutte le start-up dell'universo. Con le cinture che quando togli ecco. Allora chissà se magari qualcuno ci sta ascoltando e vuole intervenire anche su questo tema, condividere con noi. Poi ci raggiungerà proprio il dottor Aquilar che ci spiegherà perché alcune persone sono portate a condividere, altre invece preferiscono giocare la partita da sola. Ma noi oggi giochiamo la partita con la nostra schiena e allora vogliamo capire come mantenerla efficiente. Il problema nasce, il disturbo è molto diffuso. La schiena, dottor Tomaello, che è in linea con noi. Dottor Tomaello, la schiena dà problemi a molti, direi che spesso ce ne lamentiamo. Il problema è nato tanto tempo fa, quando abbiamo iniziato da quadrupedi a diventare bipedi. Esatto. Allora, l'80% delle persone al mondo hanno sofferto di mal di schiena, quasi tutti noi abbiamo sperimentato il mal di schiena. E è lo stile di vita che negli ultimi anni ci sta accompagnando, favorisce la comparsa di mal di schiena, perché la nostra schiena è stata costruita per muoversi e invece la tendenza degli ultimi anni, degli ultimi decenni, è quella di rimanere sempre più fermi, sempre più statici, e questo aumenta le tensioni muscolari, aumenta il decondizionamento sia cardiovascolare ma muscolare della muscolatura che sostiene la colonna, e di conseguenza aumentano i dolori, che nella maggior parte dei casi sono dei dolori aspecifici, non sono dolori importanti, alla base non ci sono delle patologie gravi, però che creano grave disabilità se non vengono curate e gestite in maniera corretta. Allora, intanto chi si ferma è perduto, perché bisogna muoverci. Lei ha detto che bisogna anche lavorare sulla muscolatura. Quali sono i muscoli che sostengono la nostra schiena, la proteggono? Sì, spesso ce ne sono diversi. Adesso, senza entrare troppo nel tecnico, perché magari annoiamo i nostri radioascoltatori, ma bravo, vedi, Deborah ha precisato. Bravo. Vedi com'è carino, è torinese? Io sono metà torinese perché Carbone è al 50% siciliana. No, lo dico perché sennò un ascoltatore mi scrive subito. Allora, ci dica, dottor Tomaello. No, dicevo, quindi ci sono, spesso si sente dire facciamo gli addominali, hai mal di schiena, fai tanti addominali. È vero, il muscolo trasverso dell'addome, ci sono dei muscoli anteriori molto importanti, ma ci sono dei muscoli posteriori della colonna, quelli che ci consentono di recuperare l'estensione, che ci consentono di portarci indietro, che sono altrettanto importanti, anzi alcuni molto più importanti dal punto di vista fisiologico. Dove sono localizzati? Nella parte profonda, dietro, dove normalmente abbiamo male, nella zona dove il paziente ci dice mi fanno male i reni, mi fanno male, in quella zona lì in profondità c'è un muscoletto che si chiama multifido. Multifido? Dai, sembra una polizza della Deborah, multifido. Contro i morsi dei cani. multifido, che è molto molto molto importante, per cui esistono degli esercizi specifici che consentono di attivare in maniera selettiva questa muscolatura, che ha dimostrato avere un ruolo protettivo nei confronti della colonna, dei nostri dischi intervertebrali. Ma senta, e ma questo multifido, dottor Tomaello, lei dice degli esercizi, se li tiene per lei o ce li spiega anche a noi? Allora, condivida, dottor Tomaello, condivida. Non è facile spiegarli alla radio, ma c'è un esercizio, per esempio, che si chiama Superman, in cui ci si mette in una posizione in quadrupedia e si deve alzare una gamba ed un braccio, che consentono, quindi immaginiamo di metterci in posizione in quadrupedia, alziamo la gamba destra e l'arto superiore sinistro e cerchiamo di mantenere l'equilibrio. Io intanto lo faccio, intanto che tu... Attenzione se è fredda, però... Ma la gamba è tesa o è piegata? Così io lo faccio fare a Deborah, perché Deborah è un atleta. Mettiti lì, fallo. Gamba tesa dietro, la destra, e l'arto inferiore sinistro teso in avanti. Sì. E bisogna cercare di mantenere la posizione almeno 20 secondi. Chiaramente chi non è pronto per farlo inizia con una tenuta muscolare inferiore, inizia con 5 secondi e lo ripete 3-4 volte nell'arco della giornata. Prima di qualsiasi esercizio però di rinforzo, mi raccomando, la schiena deve essere calda, per cui facciamo una passeggiata, muoviamoci, mai a freddo e mai prima, appena alzati al mattino, mai. Perché al mattino lei ci ha spiegato che è un momento molto delicato. Siamo marmorei. Allora, dottore, io quando parliamo di schiena e di mal di schiena, sappiamo che ci sono tante tecniche diverse che abbiamo a disposizione. I nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, c'è chi ha provato lo yoga e si sente molto bene, chi ha iniziato anche a fare delle camminate e ha avuto giovamento, c'è anche il Pilates, ma c'è anche la Back School. Letteralmente tradotto significa scuola della schiena, e che nasce proprio con lo scopo di insegnare e anche direi educare ad un uso sano della schiena, e lo fa attraverso esercizi e posture secondo quelli che sono i principi kinesiologici che la governano. E è una scuola che mi è piaciuta perché non è l'unica, vorrei parlarvi di questa ma poi ne parleremo di altre, perché mi sembra di capire che è una scuola che fa un mix, no? Di diversi metodi, svedese, americano, neozelandese, chi più ne ha chi più ne metta, che sono metodi di rieducazione tradizionale mescolati anche con metodi nuovi e moderni. Dottore, ci racconta di che cosa si tratta e soprattutto a chi fa bene, anche perché mi sembra di capire che per ogni caso adotta la tecnica mirata. Esatto, sono perfettamente d'accordo con lei. In realtà non esiste una tecnica riabilitativa per eccellenza, la migliore in assoluto che risolve tutti i problemi, magari sarebbe tutto più facile, staremmo tutti meglio. In realtà la moderna medicina riabilitativa va nella direzione proprio della personalizzazione del trattamento, e la Back School va proprio in questa direzione, per cui di fronte a un paziente lombalgico, un paziente che ha una dossalgia, che ha un dolore cervicale, la prima cosa è formulare una diagnosi corretta, quindi fare una visita medica e capire qual è esattamente il problema, e da lì poi decidere quale strategia riabilitativa mettere in atto utilizzando una miscellanea delle varie tecniche riabilitative che vanno applicate sul paziente. A quel punto il percorso non è finito, bisogna iniziare a lavorare e poi ricontrollare, perché non tutti rispondiamo allo stesso modo e negli stessi tempi. E a quel punto rimodificare se necessario il programma, e soprattutto a quel punto insegnare al paziente come gestire il suo mal di schiena e renderlo autonomo. Perché l'obiettivo finale poi è demedicalizzare, cioè allontanare il paziente dal medico. Se il problema non è grave, deve imparare a gestire il suo mal di schiena. Allora, noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire a proposito di auto il traffico, poi ritorniamo di nuovo insieme. Intanto chiamiamo il dottor Aquilar perché vogliamo condividere con lui i messaggi che ci sono arrivati, ma ci teniamo anche ben stretto il dottor Tomaello, perché tante sono le richieste dei nostri ascoltatori. A tra poco. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Cuore e Denari. c'ho un mal di schiena che non ho. Lamentatevi con noi all'800 24 00 24, pronto a raccogliere gli SOS che lancia la vostra schiena il dottor Luca Tomaello, ma condividete con noi anche le attenzioni che vi hanno permesso di risolvere il vostro mal di schiena o di prevenirlo, come sta facendo Clara da Padova. Buongiorno Clara. Se n'è andata. Sa che oggi coi telefoni dottor va Tomaello, così. Dottor invece un ascoltatore ci chiede: il Tai Chi è una disciplina utile per combattere il mal di schiena? È il ciclismo amatoriale indicato? Andrea ci scrive da Modena. Sì. Promuoviamo? Allora, sì, si dipende un pochettino qual è l'assetto della colonna, ma in linea generale partirei dal presupposto che lo sport non è una terapia, per cui ognuno di noi deve fare lo sport che gli aggrada, se non ci sono delle controindicazioni specifiche ad eseguirlo, per cui se gli piace fare ciclismo, perfetto, ma sarebbe opportuno che una volta sceso dalla bicicletta facesse, si chiamano degli esercizi di compensazione, cioè chi fa ciclismo, per essere pratici, sta diverse ore piegato verso l'avanti e magari quando ha finito dedica 15-20 minuti a fare degli esercizi in estensione, portando la schiena verso l'indietro. Allora in questo modo allunga tutte le catene muscolari che sono rimaste accorciate durante la gestualità. La solita cosa vale per il Tai Chi. Tai Chi è una metodica, non è una terapia, ma sembra che migliori la coordinazione. Tutto ciò che migliora la coordinazione aiuta il mal di schiena. Ma quello io guardi, vado di multifido io. Ormai lei mi ha conquistato. No, l'ho interrotta, scusi, voleva completare? No, volevo solo dire che è l'unico messaggio che secondo me è importante, che per il mal di schiena quello che vince è la costanza del movimento, quindi non usciamo e facciamo 50.000 chilometri al giorno, non partiamo con attività sportiva tutti i giorni se non siamo pronti, facciamolo in maniera regolare, 2-3 volte alla settimana con regolarità, allora in questo modo piano piano le cose si modificano. Ma secondo lei il vogatore può aiutare, che il nostro ascoltatore che soffre di mal di schiena ci manda un messaggio via WhatsApp? Il vogatore mi sembra un po' impegnativo. Il vogatore è un po' impegnativo, diciamo che se ha una discopatia lombare e soprattutto se la gestualità non è corretta, perché è quello un altro aspetto molto importante, quindi se non è seguito da un istruttore che gli coordina il movimento, può essere molto sollecitante per la schiena, per cui se ha mal di schiena meglio il multifido. Multifido diventata la parola di magica. Adesso vado a vedere cosa dice e il soprattutto web. C'è il dottor Aquilar con noi, buongiorno, a proposito di condivisione, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ha imparato anche lei l'esercizio per il multifido? Certo. Intanto io voglio ricordarvi che il dottor Aquilar ha scritto anche un libro, Condividere i ricordi, psicoterapia cognitiva e funzione della memoria, l'ultimo, non solo uno, edizioni Franco Angeli. Dottor Aquilar, io non so come vada la sua schiena, ma sicuramente lei ci aiuterà ad affrontare il tema della condivisione nel suo libro Sono i ricordi, ma abbiamo proposto ai nostri ascoltatori di raccontarci se condividono delle azioni, non so, fanno uno sport insieme all'amico, vanno in palestra, oppure amano ricevere gli amici a casa, o viaggiare in compagnia, o andare al cinema, coltivare un hobby. Dottor Aquilar. Certo, la mia schiena va abbastanza bene, anche perché cerco di condividere i pesi della vita. Vede? Che è l'altra cosa che va, come dire, condivisa insieme alle gioie. E certo, si possono condividere delle azioni, tipo fare sport o mangiare insieme, ma contemporaneamente quello che si condivide di più sono gli avvenimenti e le emozioni. E se riusciamo a condividere gli avvenimenti e le emozioni in maniera reciproca ed equilibrata, è sicuramente un vantaggio. C'è invece un aspetto negativo della condivisione, che è quando questa condivisione regola l'accesso alle risorse limitate. Quindi se abbiamo un solo computer e lo vogliamo usare in quattro, e là ci può essere una competizione collegata all'idea di condivisione. Dottor Aquilar, abbiamo Marianna che ci chiama da Padova. Buongiorno Marianna. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, auguri. Grazie. Grazie, grazie. Ormai dico grazie anch'io. Fai bene, condividiamo tutto. No, perché noi ormai condividiamo tutto. Allora, Marianna. Niente, io sarei una a cui piace condividere tutto. Solo che ho un piccolo problema a casa, quindi tutto significa dal cibo alla lettura di un libro, la visione di un film, fare una passeggiata insieme, fare un'escursione, scoprire un posto che non si conosce, insomma qualunque cosa. Anche quando è allegra o triste o ha un qualche, non so, pensiero che... Poi di solitudine che mi piacciono, ma questo soprattutto la notte, perché io purtroppo ho un'insonnia atavica e quindi vado a letto sempre nelle mattinate, e allora quelli sono i miei spazi preziosi che tengo per me. Ma che cos'è che è il problema che la trattiene? No, niente, mio marito, perché praticamente lui non vuole invece quasi condividere nulla. Ha sposato un orso, insomma. Un orsacchiotto, vabbè. Lo chiamo orsacchiotto, sì. Orsacchiotto, ecco, è molto gentile, orso. Però, insomma. Dottor Aquilar, cosa facciamo? Cambiamo marito? Lo mettiamo su una piattaforma di sharing, così lo condivide. Dai. E se ne libera, oppure che può fare potremmo Marianna? Potremmo condividere il marito, oppure potremmo cercare di suggerire alla nostra ascoltatrice Marianna di trovare delle cose o delle emozioni, oltre che delle azioni, da poter condividere. Dovremmo cercare di entrare nell'universo mentale del marito e incominciare condividendo con lui qualcosa che a lui interessa. Dopodiché potremo anche proporre di fare qualcos'altro. In più consiglierei alla nostra ascoltatrice di leggere il libro del professor Ezio Sanavio, che si chiama Vincere l'insonnia, per le edizioni Giunti. Bravo. Dove ci sono i migliori suggerimenti possibili per correggerla dal punto di vista psicoterapeutico. E poi bello, perché sicuramente l'avevamo anticipato, anche quando avvertiamo un dolore alla schiena, il pensiero quando siamo stressati, abbiamo dei pensieri negativi, prendiamo un po' la vita, no, contropelo, come si dice, noi avvertiamo sempre di più e in modo più forte il dolore e il disagio a livello fisico, perché le due parti si parlano, dottor Aquilar. Esattamente, si parlano, c'è una componente psicosomatica e molti disturbi anche fisici, incluso il mal di schiena. Ecco perché cominciamo col dire condividiamo i pesi della vita con persone care, se siamo come dire, in grado di poter avere una persona cara di cui fidarci, perché anche la nostra schiena andrà meglio. Ma possiamo tenere presente anche che nella condivisione i due assi principali sono lo spazio e il tempo. Dobbiamo decidere come condividere lo spazio e come condividere il tempo. La nostra ascoltatrice Marianna probabilmente non ha condivisione sul marito per come gestire il tempo, prima ancora che per godere insieme un'attività comune. Allora, il dottor Aquilar ha lasciato una sua bellissima... si è messo le cuffie, e quindi potete trovarlo come sempre sulla nostra pagina Facebook, perché molti di voi vogliono parlare con il dottor Aquilar, ma ringraziano anche il dottor Tomaello. Mi raccomando, ricordatevi, multifondo. Fido. Multifido. Sono andata anche a vederlo, ho visto anche dove sta. Sì, bene. Sì. Dottor Tomaello, grazie per essere stato grazie con noi, grazie al dottor Aquilar. Noi torniamo domani, restiamo. Ho trasferita domani Investire Informati. E tu io ho invitato hai un il dottor Ongaro. Bene, a domani. Puntata buona giornata ricca a tutti.